Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV secolo, di Adriano Petta e Antonino Colavito. Parte prima, la vita. La biblioteca e il Serapeo. Alessandria d'Egitto, 1 luglio 391 d.C. Devo intendere che non avete papiro da vendermi? Bella come il sole, Ipazia è rimasta ad occhi spalancati. Ritiro il rullo senza la necessaria pressura, inchiodato dal suo sguardo. Mi scuglio di sorpresa e delusione. Mio padre Isidoro scuote lievemente il capo. I suoi occhi scrutatori sembrano addolcirsi. La faccenda, mia signora, è molto più seria. La siccità di questi ultimi anni ha quasi distrutto la pianta e le poche scorte di fogli di papiro sono finite. Allora non mi resta che rivolgermi all'altro fornitore. Oh, è quasi un anno che ha chiuso la sua attività e comunque era specializzato in cordami, stuoi e vele. Noi siamo riusciti a lavorare fino adesso grazie alle scorte che avevamo. Mi spiace. Se tuo padre, mia signora, me l'avesse chiesto in tempo, avrei riservato per voi quel poco che abbiamo prodotto ultimamente. E con il volto serio e incupito accenna un sorriso di comprensione. Ipazia è rimasta come folgorata. Un lieve rossore gli ha incendiato le gote. Per le forniture si è sempre interessato Teone, ma questa è un'emergenza. Scruta intensamente mio padre. Dimmi come posso fare. Qui in Egitto per adesso non troverete neanche un foglio di Augusta. Se vi occorre una fornitura potete tentare a Siracusa. È l'unica possibilità che vi rimane. Hanno imparato abbastanza bene e il foglio è di discreta qualità. In Trinacria? È proprio così, mia signora. Occorrerà tempo. E sfiora con una mano il tavolo di lavoro di mio padre. Poi siede su un banchetto di olivo. Quanti rotoli vi occorrono? Un minimo di 100.000. Voce tremula che non riesce a celare frammenti di ansia. Per tutte le costellazioni volete aprire un'altra biblioteca? Oh, quanto tempo potrebbe essere necessario? Gli occhi accennano a liberare briciole di speranza. Per una quantità simile, almeno 12 mesi. Mio padre posa il piccolo battacchio con cui stava pestando i petali di ginestra secchi. Isidoro, a chi hai venduto le scorte che avevate? Ti prego, non è un segreto al patriarca? Ipazia rialza la testa in modo fiero. A Teofilo? E che deve farci lui? E quanti rotoli ha comprato? 50.000, tutto quello che avevamo. Mio padre volge lo sguardo verso di me. Mio figlio Shalim voleva conservarne un centinaio, ma il patriarca ha preteso anche quelli. La giovane dea volge il capo. Mi fissa stupita. A che ti servono, Shalim? E come per incanto i segni della delusione e dell'amarezza svaniscono e il bellissimo volto s'accende di una nuova luce. E queste isole di luce sono esplose a causa mia. Ho paura, comincio a tremare, ma sento lo sguardo severo di mio padre su di me, ma aggrappo ai manici del rullo. Oh, disegno canali di irrigazione e mulini. E costellazioni e stelle e cielo. Il tono di mio padre è grave, privo della minima inflessione di sarcasmo o di benevolenza. Ipazia abbandona i miei occhi e volge il capo verso di lui. Isidoro. Perché non ho mai visto questo ragazzo al nostro centro studi? È una voce diversa, sconosciuta. Non sembra appartenere all'angelo che sta a pochi piedi da me. È una voce ferma, come non ho mai sentito in una donna. Mio padre aguzza gli occhi, smette di pestare i fiori di ginestra, molla il battacchio di marmo, sta per pesare le parole, poi si decide a rispondere: Mia giovane signora, Teone è uomo di scienza. Nato e vissuto nella biblioteca e ha fatto la scelta migliore nell'avviarti al suo stesso lavoro. E tu l'hai seguito fedelmente. Ed è esattamente quello che sto facendo io con Shalim. Non è così, Isidoro. Sai benissimo che io ho due fratelli maggiori e che mio padre li ha avviati allo studio come me, ma non erano portati. E lui ha lasciato che seguissero le loro inclinazioni, Atanasio commerciante, Epifanio e atleta. E corre da una parte all'altra dell'impero per gareggiare e prepararsi alle Olimpiadi. Anche in questo caso devo dissentire. I tuoi fratelli hanno potuto scegliere. La vostra è una famiglia che ha sempre goduto di sovvenzioni da parte dell'impero per permettervi di svolgere la vostra attività. Io non so fare altro che lavorare il papiro e preparare inchiostri e colori. Ho messo su questa piccola attività e ho assoluto bisogno di Shalim perché è un ragazzo sveglio, serio e fidato. Abbiamo raggiunto un livello elevato. Il nostro foglio è molto buono. Questa siccità dovrà pur passare e riprenderemo degli operai. E Shalim un giorno dirigerà questa azienda. Mio padre ha parlato con pacatezza, senza farsi impressionare dal tono inflessibile di Pazia, ma lei non sembra disposta a cedere. Anche tu hai altre due figlie, Isidoro. Sono femmine, questa non è attività adatta a loro. Oh, anche lo studio dell'astronomia e della matematica è sempre stato sentenziato che è adatto ai maschi, eppure adesso mio padre dice che un giorno supererò lui stesso. È serissima. Non accenna ad arrendersi. Scusa, Isidoro, hai appena detto che per un po' di tempo avrete poco o niente lavoro? Perché non mandi Shalim da noi? E rivolgendosi a me, qui tutto questo appare un sogno, sempre che Shalim lo voglia, naturalmente. Mio padre mi guarda di sbieco, poi, per la prima volta, lo vedo sorridere. E a me sembra proprio un sorriso che fruga nella mia faccia spaventata. Oh, lui lo vuole, mia signora. Me l'ha chiesto innumerevoli volte. Ha 19 anni e già pretende di sapere quello che vuole e non vuole fare. Ma per amor di verità, devo dire che rinuncia a tutto pur di dedicarsi, nel poco tempo libero, a consumare tanti rotoli di papiro che avrebbero potuto essere più utili a voi, mia signora. Stringo a morte il rullo, stordito. E mio padre a continuare, tornato serio. Shalim, se la signora lo permette, perché non la accompagni nella tua stanza, laboratorio e non le mostri quello che fai? Potremmo appurare una volta per tutte se i tuoi sono scarabocchi o meno. Mentre Ipazia s'alza dallo sgabello, io riesco solo a farfugliare. Ti prego, signora, vieni. Non per i miei scarabocchi, ma perché potrebbero servirti come fogli di papiro. Ho già scoperto un procedimento per cancellare, ti prego. E sotto lo sguardo finalmente bonario di mio padre, mollo la presa del rullo e m'avvio, gambe fiacche, precedendo Ipazia. La luminosità di questo primo giorno di luglio sembra traboccare da un sole agitato quando usciamo dal laboratorio. Non riesco a controllare l'emozione che m'attanaglia la gola. Atena, aiutami tu. Di tutti i giorni della mia vita è chiaro come questo sole che tutto illumina e che mi inebria. È chiaro che questo è il giorno più importante della mia vita. E io non lo posso gettare al vento a causa di questa stupida emozione. Atena, questo incontro non è casuale, perciò devi aiutarmi. Devo riuscire a parlare, dire tutto ciò che vorrei. Non devo sprofondare nell'incredibile bellezza di questa dea, ma dialogare con la luce dei suoi occhi. Una luce pura, cristallina, che non t'abbandona mai mentre la sua attenzione è rivolta a te. Percorriamo in silenzio un breve tratto di cortile assolato. Quando apro la porta della mia stanza mi metto di fianco, inebriato dal suo profumo misterioso, e la invito ad entrare. Sta cercando di bloccare la chioma bruno-oro dietro la nuca. Fissa le pareti ricoperte con i miei papiri. E resta così, mentre i capelli ricci e ribelli sfuggono dalle dita. Si morde le labbra rosa, occhi azzurri spalancati. Shalim, hai fatto tu questi disegni? E questi calcoli? E si avvicina, scrutando, mentre dalla porta la luce inonda la mia stanza. Sì, mia signora. Sto vincendo la mia agitazione febbrile. Le sue mani abbandonano i capelli, una parte della chioma cade sulle spalle, e lei avanza, lentamente. Continua a scrutare. Si ferma davanti a me, incredulità dipinta negli occhi. Chi ti ha insegnato questi calcoli? Mio padre, Teone, quando veniva qui? No, no, mia signora, Isidoro non l'avrebbe mai permesso. È stato Zev, un vecchio ebreo che ci comprava un po' di fogli di papiro. Abita a pochi passi dalla sinagoga. Quando gli portavo i rotoli, Mi fermavo da lui e mi spiegava qualcosa degli elementi di Euclide, un po' come fatto il cielo. Se vuoi posso accompagnarti da lui per vedere se ha conservato qualche rotolo intatto. Una buona idea, Shalim. Ma non chiamarmi più signora. Ho solo 21 anni. Dimmi piuttosto, tu capisci quello che hai scritto su questi rotoli? Deve essere così trasparente il mio disappunto che Ipazia mi chiede scusa. Poi fissa lo sguardo sulla parete alle mie spalle. Orsa Maggiore e Cassiopea, perfettamente disegnate. Ma sembrano opere pittoriche, bellissime. Dove prendi questi colori, Shalim? Li preparo io e le indico i mortai di marmo sul tavolo sotto la finestra. Ci avviciniamo. Ipazia osserva con attenzione, mentre io le spiego come ricavo le polveri colorate dall'oro, dai lapislazzuli, dal cinabro, e poi le parlo dei colori trasparenti che estraggo da piante e fiori che nel mortaio riduco in liquidi viscosi. Immerge un dito nella finissima polvere di lapislazzuli. Mi parla del colore del cielo. Io mi attardo a fissare le sue falangi selvagge, sprigionanti un'energia in comunione con i suoi occhi. Ipazia continua ad ammirare i miei disegni. Le chiedo se vuol vedere il resto. Tarda a staccarsi dai rotoli. Mi segue mentre io continuo a brancolare in questo cielo. Oh, in fondo alla stanza, in uno scaffale a più scomparti, sono sistemate alcune centinaia di rotoli. Lei prende a sfilarne alcuni e a srotolarli, gettando rapide occhiate, e a volte vi si sofferma. Perché tutti questi disegni di canali, Shalim? Sono canalizzazioni d'acqua, vero? Presto Alessandria non avrà più acqua dolce. Il canale canopico ormai ha dimezzato la sua portata rispetto allo scorso anno. Sorride con un'aria supplice. Per coltivare anche un po' di papiro, spero. E da dove vorresti prenderla? Sempre dal Nilo. E sfilo un rotolo da sotto il tavolo, lo apro, per sommi capi le illustro il tracciato. Ma è un'opera gigantesca! Oh, l'imperatore non ci darà mai i soldi. 7 secoli fa sarebbe stato diverso. I Tolomei erano illuminati, mentre Teodosio si morse le labbra e un'ombra le offusca il sorriso negli occhi. Ma l'opera già esiste e l'ha costruita madre natura. Sono vene che bisogna soltanto collegare al canale canopico, magari individuando e allargando un po' le bocche sul Nilo. Non ne ho mai sentito parlare, dice lei. Da chi l'hai appreso? Credo d'averlo scoperto grazie alla mia passione per la pesca. Mi sforzo, faccio di tutto per andare al sodo. So di avere a che fare con una mente non comune. Ipazia è seria anche quando sorride, ma questa sua incredibile bellezza sta rovinando tutto. Eppure devo riuscire a capire dai suoi occhi cosa pensa di me, dei miei progetti. Prendo a raccontarle dello strano pesce dalle branchie argentee che intravidi in uno stagno accanto al lago e che inseguii e pescai qualche mese fa. Mio padre non ne aveva mai visto uno così. Allora andai al porto, lo mostrai a un pescatore e mi disse che era un pesce che viveva solo nel Nilo. E così mi misi a pescarne altri. In un mese riuscii a prenderne 3. Li avevo portati a casa in un piccolo otre. Ero riuscito a dipingergli la coda con una polvere fosforescente e indelebile. Avevo percorso 2 giorni a cavallo per recarmi al Nilo. Li avevo liberati a distanza di 30 stadi l'uno dall'altro. E poi ero tornato a casa e ogni sera mi ero recato allo stagno. Avevo scrutato, nuotato. E una sera, quando ormai avevo perso ogni speranza, cominciò a brillare una luce. Avevo preparato delle esche fantastiche, vermetti di cui erano ghiotti. Riuscii a prenderlo con facilità. Era proprio uno dei 3, con la coda dipinta di polvere fosforescente. Lo liberai, gettandolo di nuovo nello stagno. Così si fa, Shalim! Bravo! L'azione che segue il pensiero, l'esperimento pratico che segue l'idea. Questo è far funzionare la mente. Mi fissa con un guizzo ridente negli occhi. Vieni alla biblioteca, Shalim. È quello il tuo posto. Lei è di 5-6 dita più bassa di me. Si intravede esile sotto la tunica bianca, eppure quando protende le mani e mi stringe con dolcezza le braccia, mi sembra il faro, alto quasi uno stadio, un faro traboccante di sole, di freschezza, di stordimento. Ascolta, Shalim, parlerò a mio padre di questo progetto. Lo presenteremo al prefetto imperiale, ma a suo tempo. Ora c'è un pericolo più grande della stessa siccità ed è imminente. Io e Teone abbiamo bisogno di persone fidate. Domani ti aspettiamo a Serapeo. A tuo padre parlo io. Le sue dita tormentano la cintura della tunica bianca. Non accennare a nessuno il concetto di pericolo imminente. A chiunque dovesse chiederti il motivo che ti porta al Serapeo e alla biblioteca, parla dei canali che stai progettando e della siccità, anche a tuo padre, Shalim, anche a tuo padre. Il tuo cuore è puro, so che posso contare su di te e conosco anche il significato del tuo nome. Era quello di un dio fenicio, vero? Riesco a trovare la forza di risponderle per tentare di frenare la mia agitazione. E colui che rende saldo, questo è il significato di Shalim. Purtroppo dobbiamo prepararci al peggio ed essere pronti a grandi mutamenti. Deve notare i segni di perplessità sul mio volto. Ricordi il decreto imperiale Nemo se hostis polluat del 24 febbraio scorso? Praticamente vieta il culto pagano ed ebraico. La caccia a noi non cristiani è cominciata. Ma noi egiziani godiamo di un privilegio speciale. Ora non più, Shalim. Proprio questa mattina ci è venuto a far visita in via ufficiosa un curiale del prefetto imperiale, avvisandoci che 2 settimane fa, il 16 giugno, l'imperatore Teodosio ha emanato un altro decreto, togliendoci ogni privilegio. Ma si tratta solo di non poter più pregare nei templi. Forse noi due possiamo accettarlo, ma non mio padre e il tuo, Shalim, e non il tuo amico ebreo Zev. E poi c'è la biblioteca. Oh, non ci avevo pensato. È situata nel Serapeo, nel tempio di Serapis. Per tutte le stelle del cielo potrebbe correre dei pericoli. Riesco a riprendermi dalla sorpresa. Farò onore al nome che mi ha dato mio padre, Ipazia. Puoi contare su di me. L'ho letto nei tuoi occhi, Shalim, e anche nei colori che hai usato per dipingere il cielo. Adesso mostrami il composto per cancellare lo scritto dai rotoli. Mi tuffo nella descrizione della polvere che ho inventato. Le mostro come funziona. Riesco a tenere a bada il mio tremore. Poi mi faccio coraggio e le confesso che quando ero fanciullo mio padre mi ha battezzato. Poco dopo Isidoro vuole aiutarla a montare a cavallo, ma lei quasi lo fulmina con un'occhiata. Agile come una gazzella, vola sulla schiena nuda dello splendido cavallo nero. Shalim, vieni presto domani mattina. Porta con te tutti i progetti delle canalizzazioni e la polvere per cancellare l'inchiostro. E tu, Isidoro, non preoccuparti. Probabilmente tuo figlio sarà nostro ospite per qualche settimana. Fissa il sole che è già calato, oltre i tigli spogliati dalla sua estiva, poi, con un'occhiata complice, torna a guardare mio padre accanto a me. Non erano scarabocchi. E con un piede pungola il fianco del cavallo.